Anni fa, la mia fidanzata di quell'epoca mi regalò il mio primo maglione di cashmere. Poi scoprì che quando faceva freddo io lo usavo sempre, perché era caldo ed era morbido. E si sorprese molto. Cioè, lei si sorprese perché lo usavo, perché usandolo lo avrei rovinato. È stato lì che ho capito che uomini e donne non si comprenderanno mai, potranno solo tollerarsi. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. Il fatto è che non esiste un modo solo. Non esiste mai un modo solo. Anche se in realtà in questo caso dovrei dire che non esistono due modi soli. Quando parliamo di condividere la vita con la persona che amiamo, sembra sempre che le possibilità siano solo due. Insieme oppure no. Convivenza oppure no. Ed è sempre un po' come se il mondo ci stesse guardando. Amici, parenti, vicini di casa, perfino la portinaia. Sembra che ci osservino con quell'aria un po' interrogativa, quell'aria che nasconde sempre la solita domanda retorica, peraltro. Scusate, se siete insieme e vi amate, allora andate a vivere insieme, no? Ecco, da lì poi c'è chi sceglie di aspettare, c'è invece chi decide di partire subito con l'avventura. E poi c'è chi sceglie una terza via. Esistono coppie che decidono di stare insieme, ma non proprio del tutto. Persone che vivono un po' con sé e un po' con il proprio compagno, che sia moglie o marito che sia. Non sto parlando di chi per lavoro è obbligato a stare lontano, eh? Non parlo di chi non è mai a casa e quindi si vede solo nei fine settimana. Parlo proprio di chi ha due case, ad esempio, e ci rimane. Chi si trasferisce dal fidanzato solo in estate e poi torna a casa sua. Chi prende una casa in campagna e col suo compagno ci vive solo lì. Parlo soprattutto di coppie che magari qualche esperienza di convivenza o di matrimonio serio ce l'hanno già avuta e decidono per un'altra soluzione. Decidono per la terza via, quella della convivenza alternativa. Esiste sempre un altro modo per fare le cose, per vederle, per interpretarle. C'è sempre un'altra soluzione ai problemi. C'è sempre un'altra possibilità per uscirne, per starci dentro, per non buttare via tutto o per ricominciare da capo. C'è sempre un'altra via per cercare di essere un pochettino più felici. Se si convive, si sta solo insieme. Se si vive separati, si sta per lo più da soli. E poi c'è un altro modo per stare insieme. C'è una terza via alla convivenza. Ecco, se c'è qualcuno in ascolto che sta percorrendo questa via, mi piacerebbe sentire se funziona e come funziona. E il numero quindi è 800240024, questo per le telefonate, per gli sms invece è 349-238-6666. La storia è arrivata a un punto in cui io fondamentalmente sono stato invitato, la storia di cui racconto ogni giorno, cioè la mia, sono stato invitato ad andare a convivere con la persona che ho conosciuto qualche tempo fa e di cui sono innamorato. E quindi sono un paio di giorni che sto girando intorno a questa questione. Ieri ho raccontato i pro della convivenza, mentre chi ascoltava mi ha raccontato i contro. Oggi invece racconterò quelli che sono stati i contro, ho fatto un elenco e vi racconterò i miei. Però vorrei sentire delle persone che invece hanno appunto quella che insieme prima in redazione con Paolino Corleoni, con Franco Piantanida, che oggi sostituisce Vittoria Mossini, ma anche un po' con Tiziano Bonini, abbiamo definito la terza via alla convivenza. C'è il papà di un'amica che è un signore di 60 anni che è andato in pensione, che è separato da una ventina d'anni e che ha una storia da 15, quindi di fatto ha una compagna, come se fosse una moglie, no? 15 anni è una storia più che ufficiale. Lui viveva a Milano, però si è trasferito a vivere sul lago di Como. Da lunedì al giovedì lui sta a Como, si fa i fatti suoi, è in pensione, si vive la sua vita. La sua compagna vive a Milano. Il venerdì lui torna da lei, sta un po' a Milano oppure vanno a Como e lunedì ritornano ognuno a casa sua. Li ho visti e mi sembrano delle persone molto felici insieme. 800240024 349-238-6666. Luca mi ha scritto: io a San Donato, lei a Bareggio, poi io in Qatar, lei sempre a Bareggio, ma tra un po' io sarò in Italia e lei chissà dove per un tirocinio. Giovanni: io a Napoli, lei a Madrid, io a Napoli, lei a New York, io a Milano, lei a Madrid, con tre ragazze diverse. Però non è esattamente quello di cui sto parlando oggi, perché qua non è per scelta, no? È un po' come Paolino Corleone. Lui vive a Milano, sua moglie vive a Roma, ma è perché lui lavora qua e lei lavora là. No, sto parlando di un'altra cosa. Sto parlando di persone che per scelta decidono di dire: guarda, io ti amo, tu mi ami, perfetto, però stiamo ciascuno nel suo e quando vogliamo ci vediamo. Un po' come mi scrive Laura: un amore maturo ho la sensazione che questa cosa qua riguardi soprattutto le persone che hanno sopra i 40-50, un amore maturo cominciato a 40 anni, appunto, con quindi grandi storie alle spalle. Due case, due lavori intrasferibili, nessuno dei due ha voglia di farsi più di 150 km al giorno, e così stiamo ormai da quasi 9 anni, un fine settimana a Torino e uno nel Monferrato, con qualche cena infrasettimanale. Il problema più grande è ricordarsi dove sono le maglie e le scarpe, ma poi si sceglie di vedersi ogni volta e non è per niente male. 800240024 349-238-6666. Solo convivenze alternative, solo persone che hanno scelto di farle e che hanno voglia di raccontarmele. La mia convivenza ancora non è cominciata. Questo però è l'elenco dei contro. Lo so, la convivenza può avere dei lati negativi. Alcuni già li conosco, altri no. Allora, partiamo dal fatto che naturalmente dipende dalla persona con cui decidi di stare, dal sentimento che vi unisce. Però ci sono questioni che sono legate soprattutto ai generi, no? Maschile, femminile, che sono irriducibili e che fin da bambini si manifestano nella distanza che c'è tra un fucile di plastica e la casa della Barbie. Ad esempio, rigare involontariamente il parquet non è che sia la mia attività preferita. Tuttavia, camminando può capitare di farlo, giusto? Per un certo periodo ho vissuto con una donna splendida che aveva scelto il legno come pavimento. Il legno è bello, è caldo, è confortevole ed è anche delicato. Quindi se lo scegli devi tenere conto di tutte quelle variabili, giusto? E se è delicato significa che si può rovinare. Non è che uno lo fa apposta. Succede. È un po' come la Sacher Torte. La Sacher Torte ha uno strato di glassa al cioccolato e dentro è morbida. Quando fai le fette è raro che la glassa non si rompa almeno un po'. Però quella lì è la Sacher Torte ed è buona così. Voglio dire, se vuoi un dolce che non si rompe nella superficie, prendi un budino al cioccolato, no? Anni fa la mia fidanzata dell'epoca mi regalò il mio primo maglione di cashmere. Poi ho scoperto che quando faceva freddo io lo usavo sempre, perché è caldo e morbido. E lei si è sorpresa. Lei si è sorpresa perché lo usavo. E quindi usandolo io avrei potuto rovinarlo. Ecco, è stato lì che ho capito che uomini e donne non si comprenderanno mai. Giusto giusto potranno tollerarsi. Noi ad esempio usiamo la cucina. Loro preparano le pietanze. Noi ci facciamo la doccia, loro si lavano pensando a non lasciare che l'acqua si asciughi sui rubinetti perché altrimenti si fanno le macchie di calcare. Noi scegliamo la televisione nuova per come si vedono le immagini e per quanto costa. Loro per il colore del contorno. Le differenze fanno crescere, ma conviverci quotidianamente è abbastanza faticoso. Ci sono volte, ad esempio, in cui ballare nudo per casa può risultare un fastidio per chi vive con te. Ed è un po' un peccato perché a me piace fare l'air guitar. Convivere toglie all'amore ogni poesia. Avere lo stesso bagno apre gli occhi sul fatto che anche la donna con cui stai, la donna di cui sei innamorato, è un essere umano. E magari non lo volevi proprio sapere. Vedere che prima di uscire passa un sacco di tempo con la porta chiusa nel bagno perché deve usare tanto trucco, un po' ti fa sentire quasi preso in giro. E poi c'è quella parte in cui, se vivete distanti, ti chiedi curiosamente chissà cosa starà facendo lei adesso. Ecco. Quella viene tolta tutta d'un botto. Non c'è più curiosità, perché lo sai sempre che cosa sta facendo. Eccola, è lì. Si sta limando le unghie. No, sto guardando il gioco dei pacchi in TV. Ah, sta catalogando fotografie dei nipoti. Sta dormendo sul divano. La tua donna gira per casa con una tuta. La tua donna ogni tanto si incupisce e si mette in un angolo a piangere. La tua donna mangia pacchi e pacchi di patatine. La tua donna legge la settimana enigmistica. La tua donna tiene la foto dell'ex fidanzato in sala e quella di mamma e papà sul comodino. La tua donna in inverno gira con le calze, con quelle cose di gomma sotto, per non scivolare. Ecco, tutte queste cose qui, se non conviveste, non le conosceresti. E potresti cullarti nel sogno di immaginarla in sottoveste nera, a piedi nudi, seduta sul divano con le gambe accavallate, mentre guarda per l'ennesima volta Fight Club. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Nothing. nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They stumble blindly as they make their way across the universe. Giant. Convivere significa prendere decisioni insieme. L'inedia di quando si viveva da soli, ormai, è solo un ricordo. Poter ciondolare senza senso tra stanza e cucina non è più un'attività accettabile. Ah, inoltre, si deve scegliere l'arredamento di casa. Che sia un'impegnativa e costosa ristrutturazione, oppure anche solo appendere un semplice quadretto, non sarete mai d'accordo. E comunque vada, ci sarà sempre qualcuno che crederà di aver subito un sopruso. Convivere significa che le prossime domande saranno: sposarsi? Avere un figlio? Avere due figli? E uno crede di avere deciso una cosa e invece ne ha decise tre. Uno crede di aver scelto di non doversi più fare 20 km ogni sera per vedere la propria fidanzata. Invece no, ha deciso che salirà sull'altare e spingerà un paio di carrozzine. Ok, importante saperlo. Ma attenzione, perché convivere significa in fondo solo dover accettare un comandamento non scritto. Non avrai altra donna all'infuori di me. Eh sì, perché fino a quando si vive in case separate, ci sono margini di libertà d'azione, più o meno, no? Le abitudini personali rimangono tali, i propri gusti non sono mai messi in discussione, le attività private restano private. Quindi il famoso detto occhio non vede, cuore non duole, no? Se è resistito nel tempo, un motivo ci sarà. Quando convivi, l'occhio invece vede. E il cuore dovrebbe. Quindi l'occhio non deve vedere. E se l'occhio non deve vedere, non ci deve essere nulla da vedere. Ok, la faccio più semplice. Quando convivete con una donna, le giurate fedeltà. Ma non lo fate con le parole, quelle potevate farlo anche prima. E non vale la pena, perché le parole non contano niente. Al massimo raccontano. No! Lo giurate con i fatti. Non dichiarate buone intenzioni e non fate promesse. Andando a convivere, vi mettete nella condizione di non dover più nemmeno mentire su altre donne, perché non avrete mai occasione di farlo. E questo, alla fine, è il suo bello. È solo che si allarga a macchia d'olio su tutto il resto. Ad esempio, la pornografia, scordatevela. Ma non solo non potrete più nemmeno guardare un film, non potete guardare nemmeno un film semplice, perché c'è Scarlett Johansson, ad esempio, a voi piace Scarlett Johansson. Per alimentare l'attitudine all'abbruttimento e alla trivialità che è propria dei maschi, dovrete andare a giocare a calcetto e attendere di essere in spogliatoio per poter almeno parlare sporco. Sì, convivere è tornare bambino e sapere che la mamma ti sta aspettando. Convivere è sapere che non potete fare tardi o ubriacarvi in modo sceno. Convivere è diventare consapevoli che è uno e uno solo il letto dove dormirete ogni singola notte. Convivere è dire addio alle possibilità di un'isola. Convivere è la fine di tutto, ma è anche l'inizio di qualcosa. Convivere è una specie di lutto che non potrete mai elaborare, ma è anche l'inizio di una storia che misteriosamente tutti gli umani cercano di replicare, da sempre. Quindi, chi ha paura del mistero, ne stia fuori. Chi ne è affascinato, buona fortuna. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right. To think about the girl you love and hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Sky's will be blue for all my life. they tossed the dice. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I detrattori della convivenza part-time, la definisce così Luigi da Venezia, la terza via è un modo comodo per non prendersi delle responsabilità. Invece lei 45, io 50 anni, sono 5 anni che non viviamo insieme e ci amiamo tantissimo. Riusciamo spesso a dormire insieme in albergo. Il nostro segreto è che lavoriamo insieme. Mi ho perso qualche pezzo. Volevo raccontarla meglio, ma non riesco a telefonarvi. Marco, riprova. 800240024. Oppure, ancora, ciao Matteo, lei è di Senzano, io a Pesaro, nei weekend da lei da 2 anni ed è perfetto così. Ciao Giacomo. Sì, però non era proprio quello che intendevo io. Era proprio per scelta. Prima di lasciarvi alla borsa e di andare da un'altra parte e poi tornare a sentire le telefonate di quelli che percorrono la terza via, c'è un pezzo che volevo leggervi oggi, che è tratto da un'opera che è scritta per il teatro, da Erich Emanuel Schmidt, e si chiama Piccoli crimini coniugali. Parla di convivenze e parla di crimini. Piccoli crimini coniugali, una raccolta di storie brevi, o meglio, una raccolta di pessime storie brevi. In questo libro ho dipinto la coppia come un'associazione di assassini. Da principio li unisce la violenza, quel desiderio che li porta a gettarsi l'uno sull'altra, che spinge il corpo di uno dentro quello dell'altro. Poi i due assassini, se intendono continuare la loro associazione, scelgono la tregua del matrimonio, si alleano per combattere contro la società. E lì cominciano a reclamare diritti, vantaggi e privilegi. Ostentano i frutti delle loro risse, i figli, per ottenere silenzio e rispetto dagli altri. E qui la truffa assurge a capolavoro. I due nemici adesso giustificano tutto in nome della famiglia. Così ora possono distribuire schiaffi, calci, punizioni in nome dell'educazione, imporre la loro nocività, la loro stupidità e il loro rumore. La famiglia, ovvero l'egoismo vestito d'altruismo. E poi gli assassini invecchiano, i loro figli se ne vanno per formare nuove coppie di assassini. Allora i vecchi predatori, non avendo più valvole di sfogo alla loro violenza, finiscono per prendersela l'uno con l'altra, come quando si erano conosciuti, ma utilizzando altri colpi. Ora i colpi sono fatti più subdoli. Tutto è permesso in questa guerra: i tic, le malattie, la sordità, l'indifferenza, il rimbambimento. Vince chi arriva a sotterrare l'altro. Ecco la vita coniugale. Un'associazione di killer che si accaniscono sugli altri prima di infierire su loro stessi. Un lungo cammino verso la morte che lascia la strada costellata di cadaveri. La coppia giovane è una coppia che cerca di sbarazzarsi degli altri. La coppia vecchia è una coppia dove ognuno cerca di sopprimere il partner. Ecco perché, quando vedete un uomo e una donna davanti al sindaco oppure davanti al prete, chiedetevi chi dei due sarà l'assassino. Se vi capita questo piccolo libro, è un piccolo libro proprio perché è un testo teatrale, si chiama Piccoli crimini coniugali, è tradotto in Italia ed è pubblicato da EO. Questo è solo il punto di partenza, ovviamente. Questo cinismo e questa cattiveria c'è in una parte del libro, il libro poi finisce in un altro modo. La cosa più interessante la dice l'autore quando racconta che all'uscita dei teatri di Parigi, dove lo spettacolo è stato rappresentato per anni con grandissimo successo, lui aveva 3 diverse reazioni a questo spettacolo, a questo cinismo e a questo modo di vedere la coppia. La prima era dei 20enni, che quando uscivano dicevano quanta crudeltà. La seconda invece era quella dei 40enni, che quando uscivano dicevano quanto realismo. E l'ultima invece era quella dei 60enni, che uscivano e dicevano quanta tenerezza. Piccoli crimini coniugali si chiama il pezzo di libro che vi ho letto oggi. 349-238-6666 oppure 800240024. Dopo la borsa, io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao. e stoi aquí. Nella foto di oggi siamo al gelo, direi. Non so esattamente dove, ma credo in una roba che assomiglia a una cella frigorifera oppure all'hotel del ghiaccio. Insomma, c'è una ragazza, una donna, non si capisce perché, è imbacuccatissima con un mega giubbotto, un cappottone, appoggiata a una grande lastra di ghiaccio. Tutto intorno ci deve essere del ghiaccio, ma soprattutto tutto intorno è azzurro. Alessio Volonté, 28 anni, vestito quasi come un eschimese in attesa di bere qualcosa, spero di caldo, al bar del ghiaccio a Göteborg in Svezia. Io sono qui. Allora, avevo capito una cosa, che era in una roba di ghiaccio, ma non avevo manco capito che era un uomo. Scusa Alessio. La foto è sempre sul sito. A proposito del sito, radio24.it, la pagina Io sono qui, due comunicazioni di servizio. La prima, i podcast stanno arrivando. È inutile che mi scrivete tutti i giorni, perché Edo, il ragazzo quello elegante, con le scarpe da calcio, con i tacchetti, che viene a lavorare in radio, sta ancora male. Mancando lui è difficile che i podcast possano arrivare. Lo so che questo ormai è diventato una soap opera e se perdete delle puntate non riuscite a rimanere aggiornati, ma abbiate solo un po' di pazienza. L'altra invece, che alcuni si stanno perdendo perché il profilo Facebook di prima non è più attivo, ce n'è uno, si chiama sempre Matteo Caccia, io sono qui, solo non è un profilo, è una fanpage per motivi di spazio, basta che cliccate su mi piace e avete accesso a tutti i contenuti del programma. Vi leggo qualche messaggio, poi vado subito alle telefonate. C'è la terza via, insieme dal 92, convivenza dal 97, dal 2006 lavoro in una città diversa e viviamo insieme il fine settimana. Ci vediamo come amanti negli alberghi delle città quando i nostri impegni combaciano. Risultato, un bebè di 2 mesi. Baci, Angela. Andiamo invece al telefono. Purtroppo dovrò essere un po' rapido perché oggi non c'è tantissimo tempo. È venerdì e... boh. Ho detto, giustamente Franco dice, la gente va via, o noi dobbiamo andare, tu devi andare via. Mi è arrivato questo messaggio su Facebook, appunto, Matteo Caccia, io sono qui, Gianmarco che dice, la mia ragazza abita nell'appartamento al fianco a mio, abbiamo i pro della convivenza, ma non i contro. Pronto Gianmarco? Pronto, ciao Matteo. Ciao, buongiorno. Senti, fammi capire, da quant'è che stai con la tua fidanzata? Ah beh, io ci sto da 5 anni e un mese praticamente. E avete preso in affitto 2 appartamenti sullo stesso pianerottolo? No, in realtà sono tutti e 2 miei, è una bifamiliare, sono tutti e 2 miei, 2 appartamenti, e quindi no, non sono in affitto. Quindi avete arredato, tu il tuo, lei il suo? No, diciamo che erano entrambi arredati, Ma quindi però avete proprio, cioè, 2 cucine, 2 soggiorni, 2 stanze da letto? Sì, sì, assolutamente, infatti per dire, a pranzare io pranzo con i miei e lei pranza con i suoi a casa dei suoi, e poi logicamente in molte altre parti della giornata ci vediamo, anche perché lei studia, io lavoro non tutta la giornata, quindi passiamo lo stesso del tempo insieme senza stare 24 ore su 24. Senti, ma chi è che l'ha decisa questa cosa? Non dirmi insieme, qualcuno l'ha lanciata questa proposta? Diciamo che è venuto un po' per caso, diciamo che l'idea è stata mia, è stata un po' la casualità che è venuta fuori così. Ma lei non ti ha detto, senti, ma buttiamo giù un muro, apriamo una porta? Ma no, sinceramente non è venuto in mente a nessuno dei due. Direi una coppia tenuta insieme da un muro, tiriamo su questi muri, non abbattiamoli. Senti, chi è che decide, dove andiamo a cena stasera? Ma vieni da me, no dai, vengo io da te. Ma no, beh, di solito la prassi è che io vado da lei a cena, e è un po' una prassi. Certo, come venire meno alla prassi del cena da te dall'altra parte del pianerottolo. Come si chiama lei, Gianmarco? E lei si chiama Patrizia. Avete progetti tipo, non dico di abbattere il muro, ma di sposarvi o robe del genere? Sì, beh, sì, non immediati, ma l'idea è quella lì. Ti sento proprio bello su, Gianmarco. Fammi capire, anche il matrimonio è previsto a case separate o... Ma no, quello non credo, sinceramente. Vabbè, prima parlane con lei però, che invece magari lei ha idee diverse. Gianmarco, grazie mille, buona giornata. Grazie a te. Ciao, grazie. Ciao. Andiamo a Pordenone, in provincia, da Pietro. Pronto, Pietro? Pronto. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Come stai? Bene, bene, grazie. Raccontami della tua terza via. Allora, io diciamo che sono un professionista serio della terza via. Beh, bravo, allora puoi raccontarmi bene, vai. Sì, allora, ho una figlia in Olanda, sì. Non mi sono mai sposato, ho avuto 3 convivenze lunghe, sempre, solo, insomma, così. Sì. E con l'ultima, che sono 20 anni che siamo insieme, 18 anni quest'anno. Però... È così la storia. Lei veniva fuori da un divorzio con una bambina di 9 anni, quando ci siamo messi insieme ha detto, ma sai, bisogna essere delicati perché qua la ragazza, suo padre, sta storia. Sì. Stai bevendo il caffè, Pietro, nel frattempo? Eh? Stai bevendo il caffè, sei in cucina? Sì, sì. Però devo chiederti di essere un po' più rapido perché ho poco tempo oggi, arriviamo al dunque. Sì, arriviamo al dunque. E gli ho detto, guarda, non c'è nessun problema, perché va bene anche per me, non vorrei che le ragazze si disilludessero sull'amore. Sì. E a vedere i genitori che vanno e vengono con questo e quello. E così siamo partiti. Morale della favola, io abitiamo a 4 km un dall'altro, però ognuno a casa sua. Ho sbloccato l'ultima volta qua e io ho visto che lei mi fa a un certo momento, perché l'ho ripresa sui mobili, no? Pietro, stavo, scusami, guarda, io purtroppo devo salutarti. Dimmi solo, state a 4 km di distanza, dimmi il nome del paese. Maniago. Ma tu, cioè, state nello stesso paese? Sì, ma io Maniago no, lei a Montreale, di là c'è un torrente. Beh, di là dal torrente. Pietro, grazie mille, buona giornata. Salve. Ciao, alla prossima. L'ultima telefonata di oggi, andiamo da Enzo, in provincia di Genova. Pronto, Enzo? Ciao, Mattia. Ciao, so che sarai un fulmine, Enzo, a raccontarmi la tua terza via. Niente, noi è una situazione diversa perché noi siamo sposati da 23 anni. Sì. E siamo figli di genitori che ci hanno avuto in tarda età. Sì. Per cui abitiamo a 30 km di distanza e siamo partiti che non potevamo abbandonare i genitori. Per cui io faccio un giorno da mia moglie e un giorno sono sposato part time. Faccio un giorno da mia moglie e un giorno da mio padre. Adesso sto andando a mio padre che ha 96 anni, eri l'unico rimasto solo. Enzo, quanti anni hai tu, scusami? 53. Sei proprio di Genova? E del Levante, di Chiavari. Sei di Chiavari. E senti, come la storia va meravigliosamente. Meravigliosamente, perché siamo sempre andati d'accordo e abbiamo questi momenti in cui non siamo insieme, riusciamo a ritagliarci i nostri spazi, non per fare cose strane, ma per avere, magari io mi leggo un libro la sera che sono con mio padre, lei certo. Si fa il suo uncinetto, le sue cose, però quando ci vediamo abbiamo sempre da raccontarci. È una festa. Qualcosa. Enzo, grazie mille. Ciao e buona domenica. Ciao, buona ciao domenica. Grazie. Viaggiamo sulla ferrovia. Ehi, sai una cosa? Magari vediamo dei bisonti. Sei fortunata, sorellina. Io mi sento orrenda. Io ti amerò sempre, anche se diventassi enorme, anche se ci volessero mesi per perdere peso. E che oggi succedevano queste due cose insieme, che io avevo voglia di parlare dei contro della convivenza e avevo voglia di sentire parlare delle terze vie dello stare insieme. E oggi esce un film che si chiama American Life. E in inglese si chiamava Away We Go, che significa noi ce ne andiamo. Poi purtroppo succede sempre che venga tradotto in un altro modo, anche se non si capisce bene il perché. Non c'entra niente con l'American Life, è una bella storia ed è quello che i critici di solito, quelli che ne sanno di cinema, chiamerebbero un piccolo film, per il semplice fatto che non ci sono effetti speciali e non ci sono grandi star hollywoodiane. Il regista però è Sam Mendes, che è uno che fa dei bei film, ed è la storia di una coppia americana che vive nel cuore dell'America, sono giovani, lei è incinta, si amano e non trovano un posto dove stare. Loro non stanno separati, semplicemente stanno cercando un posto dove stare. Il film si chiama American Life, purtroppo, è da stasera nei cinema, andate a vederlo, è un bel film per il Natale. Io ringrazio Paolino Corleoni, ringrazio Franco Piantanida e ringrazio Stefano D'Andrea. Qualche tempo fa vi avevo raccontato di una piccola donna che stava cercando la sua strada, che aveva perso, e lottava in un ospedale, in una piccola stanza di Roma. Poco prima di andare in onda ho saputo che ha ritrovato la strada verso casa. Un saluto ad Ada. A lunedì.